il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. In che cosa consiste la grandezza di un attore? Cioè, quando e qual è l'attore veramente bravo? È quello che ha una personalità forte, fortissima, un carisma irresistibile, magari anche una prestanza fisica per cui quando arriva lui tutto scompare, quelli alla Marlon Brando o in Italia alla Gassman, quelli che in qualche modo fanno sparire tutti al loro apparire sulla scena. Oppure il grande attore è il camaleonte, quello di per sé magari poco riconoscibile, una tela bianca sulla quale dipingere di volta in volta il personaggio che lui sta interpretando, così che venga quasi da dire era lui, ma non perché si era travestito, ma perché la sua bravura interpretativa ti fa scordare l'attore e ti fa vedere il personaggio. Oppure le due cose assieme, cioè quando leggo Maigret penso a Gino Cervi, per dirvene una. Insomma, però ci sono modi diversi di essere attori. Poi ci sono degli attori che riescono a essere entrambe le cose, quello che dicevo prima, cioè a essere grandi uomini o grandi donne nel caso delle attrici, ma anche avere una capacità, come dire, mimetica per potersi confondere con il personaggio che interpretano. È una caratteristica innata che poi ovviamente viene esaltata da studio, da esperienza. Bene, è qualcosa che il nostro protagonista di oggi possedeva sicuramente, e tanto da renderlo uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Questo lo dicono tutti i critici nazionali e non. È un interprete che ha saputo eccellere sia in teatro, dove è stata una presenza grandiosa, sia al cinema, perché ha fatto almeno 200 film, e sia in televisione, dove è stato protagonista per anni di sceneggiati di grande successo, ma anche in radio, dove è stato un pioniere perché ha contribuito a dar vita a un genere che è la commedia radiofonica. Tutto questo e anche molto altro è quel mostro sacro dello spettacolo che è Paolo Stoppa, con una voce che non ha bisogno di presentazioni. Esistono due maniere di far soldi. La prima, la più logica, la più diffusa, è quella di guadagnarli. La seconda è quella di farli, letteralmente, di crearli dal niente, come fa lo Stato. Questa seconda maniera di far soldi mi affascina. Ma può esistere una via più logica, più naturale, più semplice per la ricchezza? Da un punto di vista morale ho accertato che è impossibile guadagnare molti soldi senza trovare il modo di rubarne a qualcuno. Stampare soldi in fondo non è altro che un tipo di guadagno in cui si rubacchia qualche cosa a tutti, dunque niente a nessuno. Il danno collettivo è irrilevante, ma il vantaggio individuale è enorme. Beh, avete sentito che mix di abilità, la capacità di dosare gli appoggi, le pause, la vocalità, il timbro di voce? Ecco, tutto questo era Paolo Stoppa. Immaginate, adesso accendete la televisione e vedetevi una fiction di oggi e poi fate voi le vostre deduzioni. Naturalmente con una voce del genere lui è stato anche un grande doppiatore, ha doppiato anche Fred Astaire, Kirk Douglas, poi ha smesso di doppiare perché era talmente bravo, talmente forte, che la sua voce era troppo riconoscibile e faceva scomparire l'attore che veniva doppiato. Pensate che forza incredibile che può avere una voce come la sua. Paolo Stoppa nasce a Roma 16 giugno del 1906, gemelli, no, ve la butto lì così. La sua è una famiglia della ricca borghesia romana, il padre è un funzionario, lo zio è un famoso antiquario stimato all'estero, che ha anche un negozio in via Margutta dove Paolo lavorerà da ragazzo. Questo zio, che si chiama Angusto Iandolo, è molto importante nella formazione del nipote, perché oltre a essere antiquario è stato attore nella compagnia della Divina, che era Eleonora Duse, ha scritto commedie rappresentate al Teatro Argentina, interpretate da grandi attori come Petrolini, del quale era amico. Quindi Paolo, che non ha problemi economici, decide comunque di intraprendere l'avventura teatrale. Si iscrive alla scuola d'arte drammatica all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia, dove con direttore è Silvio D'Amico, e dove c'è una compagna di classe di Paolo Stoppa che farà molta strada anche lei, si chiama Anna Magnani. È proprio recitando con lei, con la Magnani, nel 27, quindi a 21 anni, lui supera l'esame finale della scuola, il saggio di fine anno, al quale partecipano diversi impresari che sono nel pubblico alla ricerca dei nuovi talenti. E lui viene notato da una grande capocomica, Wanda Capodaglio, che lo scrittura come generico comprimario all'inizio di una straordinaria carriera, una delle più lunghe, anche delle più varie e poliedriche di tutto lo spettacolo italiano. Il falco e il gabbiano. Paolo Stoppa inizia a farsi le ossa in teatro, è un generico, poi si specializza nel ruolo di attore brillante, il ruolo che gli è forse più congeniale, perché lui è un ragazzo ironico, anche se ha sempre quella punta di amarezza nella voce. Insomma, non è il comico che ride come quelli di oggi, che ridono alle loro battute, è il comico serio che fa ridere il pubblico. Durante una delle tante tournée di quel periodo conosce Vittorio De Sica, e lì le amicizie erano queste: ti vai a scuola con la Magnani, ti incontri con la De Sica, e con De Sica lui collaborerà più avanti e darà vita a film memorabili, vincendo anche premi prestigiosi. Ma per il momento siamo in teatro, per la precisione nel mitico Carignano di Torino. Nel 1932 lui incontra la donna decisiva della sua vita, Rina Morelli, che diventa sua compagna sia sul palcoscenico sia nella vita privata. La Morelli è un'altra attrice meravigliosa, c'è uno sceneggiato TV che si chiama Le sorelle Materassi, dove Rina Morelli è un gigante. Comunque i due stanno assieme, però pensate alla civiltà di questi due, che già nel 1932 capiscono che per stare assieme a lungo non devono dividere il tetto, non hanno mai abitato assieme, niente pantofole, niente quotidianità. I due sono stati per anni compagni e hanno diviso tutto, vita, amore, passione per il teatro, per il cinema, ma senza abitare assieme. Una delle loro interpretazioni più riuscite, che è una pietra miliare della radio, ma anche della recitazione pura, è la loro partecipazione a un programma che andava in onda la domenica, un programma che è la storia della nostra radio. Cioè, io da bambino tutta la mia famiglia si bloccava perché cominciava Gran Varietà, Radio 1, scritta all'epoca da gente come Amurri, Verde, Vaime, Jürgens. Gli anni erano dal 66 al 79. Morelli! Signori, Rina Morelli e Paolo Stoppa. Questo era uno dei momenti chiave di quei Gran Varietà. Loro si chiamavano Eleuterio, lui è Sempre Tua, lei, perché lei si firmava così, perché la gag era una serie di lettere che si scrivevano due coniugi che avevano litigato, e su questo canovaccio in realtà succedevano cose fantastiche. Roma Trastevere, 4 febbraio 1970. Caro Eleuterio, la casa che conobbe la mia beata incoscienza giovanile oggi conosce la mia immensa malinconia. Dalla strada mi arriva il rumore di una motocicletta e io penso che la motocicletta in fondo è solo una bicicletta con la tosse. E penso anche che sei uno stupido, Eleuterio, se arrivi alla guerra calda per un pizzico di sale. Sempre tua. Roma Parioli, 5 febbraio 1970. Cara sempre mia, la casa che conobbe la tua beata incoscienza giovanile oggi conosce la tua beata incoscienza di signora matura. Più matura che signora. Sarà anche stupido litigare per un pizzico di sale. Il sale dà sapore alle vivande, è utile. Ma quando riesce a insinuarsi tra la cornea e la palpebra, fa male. E quando si insinua è perché una spinta gli dà forza di penetrazione. Tu hai fornito la spinta, io le palpebre e le cornee. Per questo ho litigato. Ciao, Eleuterio. Eh sì, tenete conto peraltro che erano in diretta, non erano registrati, non c'erano tagli, ripetizioni, tutto rigorosamente dal vivo, con una sintonia che denotava una conoscenza profonda, anni di rapporto d'amore, di stima professionale, di lavoro, di grandi successi. E sì, infatti loro si conoscono da quando erano giovanissimi, dal 32, quando Paolo Stoppa aveva 26 anni e la Morelli 24. Hanno iniziato un'amicizia, poi questo rapporto lunghissimo, rimarranno assieme fino alla morte di lei, che avverrà nel 76. Intanto Paolo Stoppa all'inizio degli anni 30 recita in tante compagnie, Renzo Ricci, Lamberto Picasso, Dina Galli, tutti capocomici che erano famosissimi in quegli anni. E poi nel 38 c'è il primo colpo d'ala, perché lui accetta la proposta di un impresario potentissimo, si chiamava Vincenzo Torraca. La proposta è entrare a far parte della compagnia stabile dell'Eliseo di Roma, dove c'è anche lei, Rina Morelli. L'abbiamo già detto più volte, nasce questo rapporto particolare, molto riservato. Questo anche perché lei, quando lo conosce, è già sposata. All'inizio hanno delle difficoltà, saranno sempre molto restii a raccontare i loro fatti privati, un po' come i personaggi dello spettacolo di oggi, no? Beh, quello che accade è che l'impresario Torraca fa costruire una serie di appartamenti all'interno del teatro Eliseo, dove alloggiano molti attori e dove si trasferiscono a vivere anche loro due, Stoppa e la Morelli, naturalmente in due appartamenti diversi. Il loro contratto con la compagnia dell'Eliseo è un grande passo avanti proprio dal punto di vista produttivo, perché dà loro la possibilità di lavorare stabilmente, di concentrarsi sui vari testi da portare in scena. E per Paolo Stoppa è una specie di sfida, perché i testi in cartellone sono diversi tra loro, si va dalla commedia alla tragedia, dai classici ai contemporanei, dagli italiani agli stranieri. Lui deve confrontarsi con personaggi di tutti i tipi, da Shakespeare a Corrado Alvaro, dai classici della tragedia greca alle divertenti commedie del vaudeville, quelle delle commedie dell'equivoco, diciamo. Insomma, passa dal sacro al profano con grande facilità e naturalmente con la sua classe e la sua professionalità. Diventa doppiatore, lo dicevamo, fonda la CDC, Cooperativa Doppiatori Cinematografici, presta la voce solo per pochi anni, perché poi il suo timbro diventa troppo riconoscibile e in qualche modo diventa più forte lui degli attori doppiati. E poi arriva il cinema soprattutto nel periodo bellico, quello in cui i teatri devono purtroppo lavorare meno. Gira 10 film all'anno in quel periodo. Nel 42, a fianco dei tre fratelli De Filippo, Edoardo, Peppino e Titina, in uno dei loro massimi capolavori, Non ti pago. Se non volete passare un bagno, date a me, consegnate subito il biglietto. No, il biglietto non lo consegno. Avete sentito, rifiuta, allora non ci resta che iniziare gli atti. No, un momento, avvocato, un momento. Don Ferdinando, per l'ultima volta, vi fate sposare vostra figlia? Procopio Bertolini, la puoi dimenticare, mia figlia? Allora è colpa sua, non è vero, avvocato? È colpa sua, diffamazione, appropriazione indebita, che altro? Estorsione, minaccia a mano armata e ferimento. Ah, estorsione, minaccia a mano armata e ferimento. Come vedete, se mi sparavate era meglio. Sei una carogna. E sei fortunato. Perché prima che entrassi ho scaricato la rivoltella per non rovinare la mia famiglia. Sennò io ti ammazzavo. Io ti ammazzavo come un cane. Questa è scarica, vedi? Mamma mia, che miracolo. Ah, bravo. E questo è tentato omicidio. Siete tutti testimoni che questo è tentato omicidio. E adesso 20 anni di galera non ve li leva più nessuno a voi. Gesù mio, lo scambata bella. Assassino. Delinquente. Il falco. E il gabbiano. Oggi stiamo parlando del grandissimo Paolo Stoppa, uno degli attori più completi, più rappresentativi di tutto lo spettacolo italiano del Novecento. È uno rigoroso ma sensibile, con il piglio da mattatore, uno che segna le pagine più intense del nostro teatro, grazie anche alla collaborazione con la compagna di una vita, che è la grandissima Rina Morelli, compagna non convivente per tutta la vita. E poi c'è un sodalizio artistico con il grande Luchino Visconti, e con Luchino Visconti e con tanti altri partecipa a quasi 200 pellicole cinematografiche e poi decine di sceneggiati televisivi di grande successo, e poi il trionfo della radio nelle sue scenette sempre con Rina Morelli, e poi lui che è attore stabile del Teatro Eliseo lavora con tutti i migliori attori che l'Italia abbia avuto, da Sergio Tofano, Vittorio De Sica, Ruggero Ruggeri, Ermete Zacconi, Gino Cervi, Andrina Pagnani, un'altra coppia storica. Ed è in questo periodo che lui inizia anche a lavorare in radio. Siamo alla fine del 42, la RAI, che allora si chiamava Eire, e lui recita nella Tempesta di William Shakespeare. Ha un successo tale che i giornali e le riviste non fanno che parlare di quello. Si possono ancora leggere le recensioni dell'epoca entusiastiche. Con lui ci sono Rina Morelli, Gino Cervi e la Pagnani, oltre al grande Giulio Stivale. Ecco, anche lì, non per dire sempre che una volta era tutto meglio, però i giornali e le riviste stanno parlando di alcuni attori che recitano nella Tempesta di William Shakespeare. Adesso, quando andrete dal parrucchiere, voi che ci andate, leggete una rivista e vedete insomma qual è la differenza tra i giornali scandalistici di oggi e di allora. E intanto, nell'immediato dopoguerra, Paolo Stoppa conosce un altro personaggio fondamentale, Luchino Visconti, un incontro destinato a determinare uno dei più importanti fenomeni teatrali italiani. Stoppa, Morelli, Visconti, questo trio mette in scena le piste di tutti i più celebri attori di tutti i tempi, Chekhov per esempio, Goldoni, Shakespeare, sono delle rappresentazioni che segnano un'epoca. E intanto però prosegue la sua carriera cinematografica. Ci sono anni nei quali lui gira 10-12 film, non so, Miracolo a Milano, dal romanzo di Zavattini, e siamo nel 51. E poi L'oro di Napoli nel 54 con Totò, Silvana Mangano, Sofia Loren, un episodio bellissimo, pizza a credito. Clara, Clara, mi senti? Che ci campa fai io senza te? Clara, rispondimi. Parla! Ma come posso sopportare più quella faccia? Quante ce l'hai fatto, povera femmina? Quante lacrime hai gettato per me? Caraglia! Era. A me! Clara moriva! E io mangiavo a me! È un momento bellissimo per L'oro di Napoli, che viene tradotto in varie lingue e ha un successo enorme soprattutto negli Stati Uniti. Lui riceve il nastro d'argento, tra l'altro il suo secondo nastro d'argento, perché l'aveva già preso nel 52 come premio alla carriera. Sì, perché Paolo Stoppa è uno degli attori più versatili dello spettacolo italiano. È capace di rivestire ruoli tipo il ragazzo Raskolnikov di Delitto e Castigo di Dostoevskij, messo in scena da Luchino Visconti, è una versione storica, e poi magari riesce a essere un papà un po' burbero, accigliato, ma dei buoni sentimenti nella commedia brillante Vita col padre, che ha un successo tale che negli anni 60 diventa anche uno sceneggiato televisivo e ne fanno perfino dei caroselli, sempre con Rina Morelli ovviamente. Una commedia in 30 minuti. Rina Morelli e Paolo Stoppa in Vita col padre. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno papà. Buongiorno Vinny. Buongiorno Carlo. Dormito bene? Benissimo Carlo, grazie. Benissimo. Mi dispiace Carlo, caro, ma credo proprio che Carletto abbia bisogno di un vestito nuovo. Cara Vinny, Bisogna che Carletto impari a non rovinare tanto i vestiti. Sa, papà, stamani vado a giocare al calcio e ho promesso di trovarmi là alle 8. Prima ho anche da studiare il catechismo. E che lo studi a fare? Ma qualche volta, Carlo, ho l'impressione che non ti importi affatto che i tuoi figlioli vadano o no in paradiso. Tranquilla, Vini, qui ti andrai in paradiso. Ci andrò io prima di te e farò in modo che ti lasci entrare. E arriviamo al 63, un anno ancora estremamente importante per Paolo Stoppa, perché a fianco di una costante produzione teatrale di grande livello, dove interpreta tutti i ruoli principali del teatro italiano e straniero, arriva la consacrazione internazionale anche al cinema. Visconti, che lo ha già diretto in un ruolo minore, Rocco e i suoi fratelli, e poi nel 62 in un episodio di Boccaccio 70, lo chiama a interpretare il ruolo di Don Calogero Sedara nel suo film capolavoro Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa. È un personaggio chiave del racconto e quindi del film, che rappresenta, spero lo sappiate, una nuova borghesia affarista, abile nello sfruttare l'incertezza dei tempi, che si imparenta con il vecchio principe, il principe di Salina, il grande Burt Lancaster, perché fa sposare la figlia, la bellissima Angelica Claudia Cardinale, al nipote del principe Tancredi, che è Delon. Bene, Paolo Stoppa è magistrale nel dipingere questo personaggio, cioè il borghese che sorge dalla rovina della nobiltà feudale, ignorante ma non stupido, rozzo ma acuto. E con lui, come sempre, c'è anche Rina Morelli, che interpreta invece la principessa di Salina. Papà! Papà! Don Calogero sta salendo le scale! È in frac! In frac! Don Calogero in cravatta bianca, è il segno della rivoluzione in cammino. Sì, certo, in frac, è vero, ma guardate che frac. E le scarpe. Buonasera, Don Calogero. Buonasera, principe. Mia moglie non sta bene, è un poco raffreddata. Oh, mi dispiace, molto. Grazie, principe. Io spero che le loro eccellenze mi scuseranno se mia figlia Angelica viene al suo posto. Da un mese non fa che parlare del piacere che avrebbe avuto ad essere da loro conosciuta da grande. Principessa. Buonasera, Don Calogero. Mia figlia sarà qui fra un minuto, non era ancora del tutto pronta, ma adesso viene. Ci sono due passi da casa nostra qui, loro lo sanno. Sì, Don Calogero, sì, l'aspetteremo. E Il Gattopardo è un immenso e meritatissimo successo mondiale, è uno dei grandi capolavori di Visconti, chiaramente per Paolo Stoppa è da considerarsi uno dei colpi d'ala maggiori della sua carriera. Insomma, altri registi cominciano a guardarlo con un occhio nuovo, perché non solo è un grande attore, non sbaglia mai un colpo, ma è veramente in grado di recitare qualsiasi parte. Non so, nel 68 Sergio Leone lo chiama per interpretare il vecchio Sam in C'era una volta l'West, con Henry Fonda e Charles Bronson, e con una grande Claudia Cardinale. Come si chiama quel posto dove andate? Sweetwater. La fattoria McBay. McBay? Ma certo, quel testone rosso di irlandese, quello che coltiva la sabbia in mezzo al niente. Solo un matto come lui poteva battezzare dolce acqua quel pezzaccio di deserto rosso. Sweetwater! E poi negli anni 70 lui interpreta una lunga serie di sceneggiati televisivi, i famosi sceneggiati della Rai, quelli che in quel periodo hanno un successo incredibile con gli italiani, e lui fa Meucci, poi c'è nei Budenbrock, nel Commissario De Vincenzi, Accadde a Lisbona, di cui vi abbiamo fatto sentire un monologo in apertura di puntate, poi L'amaro caso della baronessa di Carini, e poi il cinema con dei capolavori, Rugantino del 73, dove interpreta Mastro Tita, e poi arriva Il Marchese del Grillo con Sordi, e lui fa uno strepitoso Papa Pio VII sotto la guida di Monicelli, Papa Pio VII che gli vale il terzo nastro d'argento. Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io? No, santità, ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra. È morta la giustizia. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, Don Ferruccio. E basta! Oh. E a voglia, troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Lo so, santità, giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. Strepitoso, ma c'è un altro ruolo meraviglioso. 1982, ancora con Monicelli, arriva Amici miei, atto secondo. Stoppa interpreta uno strozzino, Savino Capogreco, lo strozzino al quale Tognazzi, il marchese Mascetti, deve dei soldi e al quale quindi gli altri cercano di far pagare la sua grettezza. Voi non vi sentite bene? Che cosa c'è? Che vi sentite? Non so, non capisco, ero sicuro di averla fatta, tutto tranquillo. Stitichezza? Ma che no, diarrea? No, ma no, normalissimo, vi dico, tutto normale, lo dico io, se ve lo dico io vuol dire che è vero, no? E allora? Allora, non c'è niente. Niente? Ma come niente? Ma non c'è, io l'ho fatta. Vado a vedere, non c'è, per terra non c'è. Ai. Io una cosa come questa non l'ho mai sentita. Cosa ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Che ai, ricominciamo. Caso tipico di defecazio isterica. Si ha la netta, chiara impressione di defecare e non esce nulla. Ma sì, come la gravidanza isterica. È così, all'incirca. Ma è grave? Dipende, è il retto che viene colpito da atonia isterica. Se non si sblocca, è la fine. Ah, ma poi si sblocca? Mai. Mai? Bisogna aiutare a sbloccarlo. Ci vuole un trapianto anale. E poi bisogna intervenire subito. Forse siamo ancora in tempo, ragazzi. Fassoletto, andiamo! Via, via, via, via, via, via, alla clinica, dai col braccio! Troviamo un donatore di buco di culo. Io gliene posso dare mezzo, però prima si passa dal notaio, Quella è una scena meravigliosa. Io l'avrò vista 50 volte, la sua memoria. Comunque la vita non è solo quello, perché nel 1976 Paolo Stoppa rimane da solo, perché prima muore Luchino Visconti a marzo e poi a luglio viene a mancare la sua adorata Rina Morelli. Lui ha uno sbandamento, vorrebbe lasciare il teatro per sempre, ma interviene Franca Valeri, lo sostiene, lo sprona e lui continua a essere fino alla fine quello che è sempre stato, un grande attore con un grande amore, il teatro. Tra l'altro riesce a unire due dei suoi grandi mezzi espressivi, appunto il teatro e la televisione, portando sul piccolo schermo opere di grande spessore come L'avaro di Molière, Il berretto a sonagli di Pirandello, che è la sua ultima apparizione in pubblico. Siamo nell'85, lui ha quasi 80 anni. Davanti a tutto il paese, lei signora non ha bollato con un marchio di infamia tre persone? Uno d'adultero, una di sgualdrina e me di becco. A lei vorrebbe dirlo soltanto d'aver commesso una pazzia. E non basta, signora mia. Lei deve dimostrare d'essere pazza. Pazza davvero, da chiudere. Vada. Si prenda questo piacere di fare per tre mesi la pazza davvero. Ma le pare cosa da niente? Fare il pazzo. Ma potessi farlo io, come piacerebbe a me. Sferrare, signora, qua per davvero tutta la corda pazza, cacciarmi fino agli orecchi il berretto a sonagli della pazzia e scendere in piazza a sputare in faccia alla gente la verità. Paolo Stoppa muore il primo maggio del 1988 per una forma di leucemia contro la quale combatteva da tempo. Bene, lui ha calcato le scene per quasi 60 anni raccontando gli italiani e la loro storia, l'uomo e la sua storia, attraverso una carrellata infinita di personaggi incredibili e straordinari. Chapeau. ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono persone che hanno vissuto tutta una vita piena di colpi d'ala grazie al loro talento, al loro ingegno, alla loro cultura, alla loro umanità. Ecco, Paolo Stoppa appartiene a questa categoria sempre più sparuta, ahimè, al giorno d'oggi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it oppure scrivete al nostro sito www.radio24.it e poi c'è il mio Facebook, il mio Twitter, i miei social, i nostri social, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.